Lamento per la morte di Giuseppe Pinelli, l'anarchico della Ghisdolfa. E per la pezza, e non sanno cosa dire, la corda gruppa è morto senza colpa, e non chianti nulla amici, gli scontenti e gli infelici, e lo pianci la moglie, gli compagni ferrovieri, che innocenti lo infamano, gli inquirenti di Milano, che innocenti lo infamarono, gli inquirenti di Milano. Per tre giorni e per tre notti, interrogato a ferri corti, trafumate e toti storti, nell'amor salustri in cielo, e che tu, Naggianotti, li vincei, Cannibbiano, era chiusa la finestra, poi aperta la lasciano, era quasi mezzanotte, a finestra c'è l'amore, sì, era quasi mezzanotte, a finestra c'è l'amore, sì. E chi feci la morte? La spittò fuori la corte a Giuseppe, o entrò dalla balconata dentro la stanza affumicata e annebbiò le sentimenti degli esperti inquirenti? Era quasi mezzanotte e cadde nella corte, e strisciò i cornicioni che la sotta lupa e fuori, era morto su stanti, stiso in terra malamenti, ma pareva fossi morto un istante precedenti. Lui questore disse poi, non l'abbiamo ucciso noi. Lui questore disse poi, non l'abbiamo ucciso.